Una viva e calda luce di sole accorreva da Berkeley Road veloce, con sandali snelli, lungo il marciapiede che si rischiarava. Corre, corre ad incontrarmi. Una fanciulla con i capelli d'oro al vento. Due lettere e una cartolina erano per terra nell'anticamera. Si chinò a raccattarle. Mrs. Marion Bloom. Il cuore, veloce, rallentò di colpo. Scrittura decisa. Mrs. Marion. Entrando in camera, socchiuse gli occhi e si diresse verso la testa scarruffata attraverso la calda penombra gialla. Per chi sono le lettere? Le guardò Mullingar, Millie. Una lettera di Millie per me, disse circospetto, e una cartolina per te. E una lettera per te. Posò la lettera e la cartolina per lei sul copriletto a diagonale vicino alla curva delle sue ginocchia. Vuoi che tiri su l'avvolgibile? Tirando su l'avvolgibile a colpetti leggeri, fino a metà finestra, la vide con la coda dell'occhio sbirciare la lettera e infilarla sotto il guanciale. Basta così? Chiese voltandosi. Stava leggendo la cartolina, appoggiata a un gomito. Ha ricevuto quella roba, disse. Aspettò che avesse messo da parte la cartolina e si raggomitolasse di nuovo lentamente con un sospiro confortevole. Sbrigati con quel tè, disse. Ho la gola secca. L'acqua sta bollendo, disse lui. Ma indugiò per sgombrare la sedia, la sottoveste a strisce, biancheria sporca buttata là, e la ammucchiò tutta insieme in una bracciata ai piedi del letto. Mentre scendeva in cucina, lei lo chiamò. Che c'è? Riscalda la teiera. Stava bollendo di certo. Un pennacchio di vapore dal becco. Riscaldò e vuotò la teiera e ci mise dentro quattro cucchiaini colmi di tè, inclinando poi il bollitore per versarci l'acqua. Aspettando che il tè fosse pronto, tolse il bollitore dal fuoco e schiacciò la padella sui carboni accesi e stette a guardare il grumo di burro scivolare e struggersi. Mentre scartava il rognone, la gatta miagolava famelica contro di lui. Dagli troppa carne e non piglia più topi. Dice che la carne di maiale non la mangiano. Cosher. Toh! Lasciò cadere il foglio sanguinolento per lei e calò il rognone nel burro sciolto, sfrigolante. Pepe. Lo sparse con le dita attorno torno, prendendolo dal portauova sbreccato. Poi aprì la lettera, scorrendo il foglio dall'alto e poi a tergo. Grazie, berrettino di lana nuovo. Mister Coghlan, merenda al lago Howell, uno studentello, le ragazze in riva al mare di Blazes Boylan. Il tè era pronto. Riempì la sua tazza salvabaffi, porcellana imitazione Crow Derby, sorridendo, regalo di compleanno di Millina Sciocchina. Aveva appena 5 anni allora. No, un momento, 4! Le detti quella collana imitazione ambra che lei ruppe. Infilavo pezzettini di carta da pacco ripiegati nella cassetta delle lettere per lei. Sorrise versando. Oh, Millie Bloom, tu sei il mio amore. In te mi specchio a tutte l'ore. E preferisco te senza un quattrino a Katie Keogh con l'asino e il giardino. Povero vecchio professor Goodwin. Un caso terribile. Eppure era un vecchietto così gentile. Con chinchini antiquati accompagnava Molly fuori del palco e lo specchietto nel tubino. Quella sera che Millie lo portò in salotto. Guardate che cosa ho trovato nel cappello del professor Goodwin! Ci si mise tutti a ridere. Il sesso che spuntava fuori fin da allora, sfacciatella che era. Infilò una forchetta nel rognone e lo rivoltò, poi sistemò la teiera sul vassoio. Come lo sollevava, l'ammaccatura scattò. C'è tutto? Pane e burro, 4. Zucchero, cucchiaino, la panna. Sì. Lo portò di sopra, col pollice infilato a uncino nel manico della teiera. Aprendo la porta con una spinta del ginocchio, portò dentro il vassoio e lo posò sulla sedia accanto al capezzale. Quanto tempo ci hai messo? Ella disse. Nell'alzarsi vivacemente, con il gomito sul guanciale, fece tinnire gli anelli d'ottone. Abbassò calmo gli occhi sulla mole di lei e tra le grosse morbide tette, pendule entro la camicia da notte come le mammelle d'una capra. Il calore di quel corpo coricato si librava nell'aria, mescolandosi all'aroma del tè che lei versava. Un pezzetto di busta lacera faceva capolino da sotto il guanciale affossato. Sulle mosse per uscire, egli si fermò un momento per assestare il copriletto. «Di chi era la lettera?» chiese. Scrittura decisa. «Marion». «Ah, di Boylan», disse lei. «Vieni a portarmi il programma. Che cosa canterai?» «L'acida re con J.C. Doyle», rispose, «ed amor la vecchia dolce canzone». Le sue labbra piene del bere sorridevano. Un certo odor di stantio che l'incenso lascia il giorno dopo. Come l'acqua dei fiori andata male. «Vuoi che apra un po' la finestra?» Piegò in due una fettina di pane mettendola in bocca e chiese: «Anche ora è il funerale?» «Alle 11, mi pare», rispose lui. «Non ho visto il giornale». Seguendo l'indicazione del dito di lei, prese una gamba delle mutande sporche sul letto. No, allora una giarrettiera grigia, attorcigliata, avvolta attorno a una calza, pianta del piede sformata, lustra. No, quel libro. Altra calza, la sottoveste. Deve essere cascato per terra, ella disse. Tastò di qua e di là. Voglio e non vorrei. Chissà se lo pronunzia bene. Voglio. Nel letto non c'è. Deve essere scivolato sotto. Si chinò e rialzò le frange del copriletto. Il libro, caduto, era aperto contro la pancia del vaso da notte decorato d'una greca arancione. «Fa un po' vedere», disse lei. «Ci ho messo il segno. C'è una parola che ti volevo chiedere». Mandò giù un sorso di tè dalla tazza che teneva non dalla parte del manico e, pulitesi in fretta le punte delle dita sulla coperta, cominciò a scorrere il testo con una forcina finché non trovò la parola. «Mette in che cosa?» chiese lui. «Ecco», disse lei. «Che cosa vuol dire?» Egli si chinò e lesse accanto all'unghia lucida del pollice. «Metempsicosi?» «Sì. Come lo chiamano in famiglia?» «Metempsicosi», disse aggrottando i sopraccigli. «È greco, viene dal greco. Vuol dire la trasmigrazione delle anime». «Oh, sorbe!» disse lei. «Diccelo in parole povere!» Egli sorrise con un'occhiata intralice all'occhio beffardo di lei, gli stessi occhi giovanili. La prima sera dopo le charade, Dolphin's Barn, sfogliò le pagine sbaffate. Ruby, l'orgoglio del circo. Olà! Illustrazione. Un feroce italiano con la frusta. Deve essere Ruby, orgoglio del sul pavimento nuda. Lenzuolo gentilmente concesso. Il mostro Maffei desistette e respinse da sé la vittima con una bestemmia. Crudeltà. Ecco che cos'è in fondo. Animali drogati. Trapezio da Engler. Dovetti guardare da un'altra parte. La folla a bocca aperta. Schiantati il collo e schiatteremo da ridere. Famiglie intere. Gli disarticolano le ossa da giovani. Così metempsicosano. Che noi viviamo dopo la morte. Le nostre anime. Che l'anima di un uomo dopo la morte. L'anima di Dignam. L'hai finito? Egli chiese. Sì, rispose lei. Non c'è niente di piccante dentro. Resta sempre innamorata del primo fino in fondo. Mai letto. Ne vuoi un altro? Sì, prendimene un altro di Paul de Kock. Che nome carino che ha. Versò un altro po' di tè nella tazza, guardandolo scorrere con la coda dell'occhio. Devo rinnovare il prestito di quel libro dalla biblioteca di Capel Street, se no scriveranno a Kearney il mio mallevadore. Reincarnazione, ecco la parola. Alcuni credono, disse, che noi si continui a vivere in un altro corpo dopo morti e che si sia vissuti prima. La chiamano reincarnazione, che noi tutti siamo vissuti prima sulla Terra, migliaia d'anni fa o su qualche altro pianeta. Dicono che ce ne siamo dimenticati. Alcuni dicono di ricordare le loro vite passate. La panna sdipanava pigra le sue spirali cagliose nel tè. Meglio rammentarle la parola. Metempsicosi. Un esempio andrebbe meglio. Un esempio. La ninfa al bagno sopra il letto. Supplemento gratuito al numero di Pasqua di Photobits. Splendida riproduzione artistica a colori. il tè prima di metterci il latte. Assomiglia abbastanza a lei, coi capelli sciolti, più snella. 3 scellini e 6 pence ho speso per la cornice. Disse che sarebbe stata bene sopra il letto. Ninfe nude, Grecia e per esempio tutta la gente che viveva allora. Sfogliò a ritroso le pagine. Metempsicosi, disse. È come la chiamavano gli antichi greci. Allora credevano che ci si potesse trasformare in animale o in albero, per esempio. Quelle che loro chiamavano ninfe, per esempio. Il cucchiaino cessò di mescolare lo zucchero. Lei guardò fisso davanti a sé, inalando per le narici inarcate. C'è odor di bruciato, disse. Hai lasciato qualcosa sul fuoco? Il rognone, gridò lui subito. Si ficcò il libro alla meglio in una tasca interna e, urtando con le dita dei piedi contro la seggetta sgangherata, corse verso l'odore, precipitandosi giù per le scale con gambe di cicogna spaventata. Un fumo pungente si sprigionava da un lato della padella con uno spruzzo iroso. Infilando un dente della forchetta sotto il rognone, lo staccò e lo rivoltò sul dorso come una tartaruga. Appena bruciacchiato. Lo fece saltar via dalla padella su un piatto e ci fece poi colar sopra il poco sugo marrone. Tazza di tè ora. Si sedette, tagliò e imburrò una fetta di pane, pelò via la carne bruciata e la buttò alla gatta. Poi se ne infilò una forchettata in bocca, masticando con discernimento la carne gustosa ed elastica, cotto a puntino. Un sorso di tè. Poi tagliò dei quadratini di pane, ne inzuppò uno nel sugo e se lo mise in bocca. Che cos'era quella storia d'uno studentello ed una merenda? Spianò la lettera a lato del piatto, leggendola lentamente nel masticare, inzuppando un altro quadratino di pane nel sugo e portandoselo alla bocca. Carissimo Papalino, ti ringrazio tanto tanto del bel regalo per il mio compleanno. Mi sta un amore. Tutti dicono che sono proprio una bellezza col berrettino nuovo. Ho avuto la bella scatola di cioccolatini di mamma e scrivo anche a lei. Sono buonissimi. Vado a gonfie vele con le fotografie ora. Mister Coghlan me ne ha fatta una e la signora la manderà quando è sviluppata. Ieri affari in grande stile. Era una bella giornata e c'erano tutti i polpacci grossi. Andiamo al lago Howell lunedì con amici per una merenda rimediata. Ricordami a mamma e a te un bacione e grazie. Suonano il piano al piano di sotto. Mettono su uno spettacolo al Greville Arms sabato. C'è uno studentello che delle sere viene qui. Si chiama Bannon. Ha cugini o parenti pezzi grossi. Canta la canzone di Boylan. Stavo per metterci Blazes Boylan. Su quelle belle ragazze in riva al mare. Digli che Millina sciocchina gli manda i miei distinti saluti. Ora devo chiudere con tanti baci affettuosi. La tua affezionatissima figlia, Milly. Post scriptum. Scusa la calligrafia o furia. Ciao ciao, M. 15 anni ieri. Curioso, anche il 15 del mese. Il suo primo compleanno fuori di casa. Separazione. Ricordo la mattina d'estate in cui nacque. Corsi a cavar dal letto Mrs. Thornton in Dancing Street. Vecchietta spassosa. Un sacco di bambini deve aver aiutato a venire al mondo. Lo capì fin dal principio che il povero Rudy non sarebbe vissuto. Ma Dio è buono, signore. Lo capì subito. Ora avrebbe 11 anni se fosse vissuto. Il suo viso, vuoto d'espressione, guardava malinconicamente il poscritto. Scusa la calligrafia. Furia. Piano al piano di sotto. Esce dal guscio. Quella scenata al caffè XL per il braccialetto. Non volle mangiare i dolci né parlare né alzare gli occhi. Sfacciatella. Intinse altri quadratini di pane nel sugo e mangiò un pezzo di rognone dopo l'altro. 12 scellini e 6 pence la settimana. Non molto. Tuttavia avrebbe potuto trovare di peggio. Teatro di varietà. Studentello. Beve un sorso di tè più fresco per mandar giù la colazione. Poi rilesse la lettera 2 volte. Oh, beh, sa badare a se stessa. E se non fosse così? No, non è successo niente. Naturalmente potrebbe. Comunque aspetta che succeda. Una ragazzina sbrigliata, le sue gambe snelle in corsa su per le scale. Destino. Ora sta maturando. Civetta. Molto. Sorrise con affetto inquieto alla finestra di cucina. Quel giorno che la colsi per la strada mentre si pizzicava le gote per farle più rosse, un po' anemica, le è andato il latte per troppo tempo. Sull'Erin's King, quel giorno intorno al Kish, quel maledetto trabiccolo che traballava da tutte le parti, neanche un po' di fifa, la sciarpa azzurro chiaro sciolta al vento insieme con i capelli. Sono tutte fossette ricciolini, la testa te la fa proprio girare. Ragazza in riva al mare. Busta strappata, le mani nelle tasche dei pantaloni, vetturino fuori servizio che canticchia, amico di famiglia. Girare, dice, molo coi fanali, sera d'estate, orchestrina. Le belle, quelle belle ragazze in riva al mare. Anche Milli. Baci giovani, i primi, lontani ora passati. Mrs. Marion. Adesso legge appoggiata sulla schiena, contandosi le ciocche di capelli. Sorride, si fa le trecce. Un lieve malessere, un rimpianto gli corse giù per la spina dorsale, aumentando di forza. Succederà, sì. Impedire, inutile. Non ci si può muovere. Dolci, lievi labbra di fanciulla. Succederà anche a lei. Sentì il malessere scorrere e diffondersi in lui. Inutile muoversi ora. Labbra baciate, bacianti baciate, labbra di donna piene, vischiose. Meglio laggiù dov'è, lontano, tenuta occupata. Voleva un cane per passare il tempo. Potrei fare una scappata laggiù. Per Ferragosto, solo 2 scellini e 6 pence andate e ritorno. Mancano ancora 6 settimane, però. Potrei procurarmi una tessera della stampa, oppure per mezzo di McCoy. La gatta, dopo essersi leccata tutta la pelliccia, tornò al foglio imbrattato di carne, lo annusò e si avviò sussiegosa alla porta. Si voltò a guardarlo, miagolando. Vuole uscire. Aspetta davanti a una porta, prima o poi si aprirà. Farla aspettare. È in agitazione, elettrica, temporale nell'aria. Si passava le zampe dietro l'orecchia con le spalle al fuoco, anche. Si sentì pesante, pieno, poi un lene rilassamento degli intestini. Si alzò, slacciandosi la cintura dei calzoni. La gatta gli miagolò. Miau! Disse in risposta. Aspetta che sia pronto. Pesantezza. Sarà una giornata calda. Troppa fatica a trascinarsi su per le scale fino al pianerottolo. Un giornale. Gli piaceva leggere sulla seggetta. Spero che nessun babbuino venga a bussare proprio mentre. Nel cassetto della tavola trovò un vecchio numero di Tithbits. Se l'infilò piegato sotto l'ascella, andò alla porta e l'aprì. La gatta salì con balzi leggeri. Ah, voleva andar su, raggomitolarsi sul letto come una palla. Tendendo l'orecchio sentì la voce di lei. Vieni, vieni, Micia, vieni. Uscì dalla porta di dietro nel giardino. Si fermò e tese l'orecchio verso il giardino vicino. Nessun rumore. Forse stende i panni ad asciugare. La serva era in giardino. Bella giornata. Si chinò a osservare un magro filare di pianticelle di mentuccia che cresceva lungo il muro. Farci un bersò. Fagioli di Spagna, vite americana. Bisogna concimar bene tutto. Terreno rognoso. Uno strato di fegato di zolfo. Tutti i terreni così, se non si concimano. Acqua di rigovernatura. Marna. Ma che cos'è poi? Le galline nel giardino accanto. Le loro cacatine sono ottime come primo strato, ma meglio di tutto il bestiame, specie se gli danno da mangiare semi oleosi, copertura di letame, meglio di ogni altra cosa per ripulire i guanti di camoscio da signora. Il sudicio pulisce, la cenere anche, bonificare tutto, piantare piselle in quell'angolo. Lattuga, si avrà sempre verdura fresca. Però i giardini hanno i loro lati negativi. Quell'ape o moscone qui il lunedì di Pentecoste. Andò avanti. Dov'è il mio cappello a proposito? Lo devo aver riattaccato al piolo o è appeso al pianterreno? Curioso, non me ne ricordo. L'attaccapanni è troppo pieno. 4 ombrelli, il suo impermeabile. Raccattate le lettere. Il campanello della bottega di Drago che suona. Strano, ci stavo proprio pensando. Capelli scuri, lucidi di brillantina sul colletto. Mi sono dato appena una lavata e una spazzolata. Chissà se ho tempo di fare un bagno stamattina. Tara Street. Quello della cassa aiutò James Stevens a scappare, dicono. O'Brien. Voce profonda che ha quel Dlugax. Agendath, e poi? Ecco, signorina mia. Entusiasta. Tira un calcio alla porta ballerina del cesso. Meglio stare attenti a non sporcare questi pantaloni per il funerale. Entrò, chinando la testa sotto il basso architrave, lasciando la porta socchiusa, in mezzo al tanfo di calce muffite, di ragnatele e stantie, si sbottonò le bretelle. Prima di sedersi, sbirciò da una fessura una finestra dei vicini. Il re era al suo banco. Nessuno. Accosciato sulla seggetta, spiegò il giornale, voltando le pagine l'una dopo l'altra sulle ginocchia denudate. Qualcosa di nuovo e agevole. Non c'è nessuna fretta. Tratteniamola un po'. Il nostro racconto a premio. Il colpo da maestro di Matcham, di Mr. Philip Beaufoy, Club degli spettatori, Londra. L'autore è stato pagato in ragione di una guinea a colonna. 3,5. 3 sterline e 3 scellini. 3 sterline, 13 scellini e 6 pence. Lesse tranquillamente, trattenendosi, la prima colonna e, cedendo, ma resistendo, attaccò la seconda. A mezza strada, la sua ultima resistenza cedendo, permise ai suoi intestini di liberarsi comodamente mentre leggeva. Leggeva ancora pazientemente. Quella leggera stitichezza di ieri sparita del tutto. Spero non sia troppo grosso a far rispuntare le emorroidi. No, giusto, giusto. Così. Ah, stitico. Una pillola di cascara sagrada. La vita potrebbe essere così. Non lo aveva commosso o toccato, ma era una cosa svelta e pulita. Ora stampano qualsiasi cosa. Stagione morta. Continuava a leggere, seduto calmo sul suo odore ascendente. Pulita certamente. Matcham pensa spesso al colpo da maestro con il quale conquistò la piccola strega ridente che ora comincia e finisce moralmente. La mano nella mano. In gamba, ripercorse con lo sguardo quel che aveva letto e, mentre sentiva la sua acqua scorrere tranquillamente, invidiava senza cattiveria quel bravo Mr. Beaufoy che l'aveva scritta e aveva avuto in pagamento 3 sterline, 13 scellini e 6 pence. Potrei mettere insieme un bozzetto. Autori Mr. e Mrs. M. L. Bloom. Inventare una storia su un qualche proverbio. Quale? Una volta avevo l'abitudine di scrivermi sul polsino quel che lei diceva vestendosi. Non mi piace vestirci insieme. Mi son graffiato nel farmi la barba. Si mordeva il labbro inferiore nell'agganciarsi la sottana. Cronometravo 9:15. Non ti ho pagato ancora, Roberts. 9:20. Com'era vestita Greta Conroy? 9:23. Che mi è saltato in testa di comprare questo pettine. 9:24. Quel cavolo m'ha riempito d'aria. Un granello di polvere sulla sua scarpa di vernice si strofinava vivacemente l'una dopo l'altra la punta delle scarpe contro il collo delle calze. Mattina dopo il ballo di beneficenza, quando l'orchestrina di May suonò la danza delle ore di Ponchielli. Spiegare. Erano le ore della mattina, mezzogiorno. E poi arrivava la sera, poi le ore della notte. Si lavava i denti. Quella fu la prima sera. La testa di lei che danzava, le stecche del ventaglio che crepitavano. Quel Boylan è benestante. Ha dei quattrini. Perché? Mi sono accorta ballando che il fiato gli sa di buono. Inutile canticchiare allora. Alludere a questo. Musica strana quell'ultima sera. Lo specchio era in ombra. Strofinava vivacemente lo specchietto sulla maglia di lana contro la mammella piena, ondeggiante. Ci scrutava dentro, rughe agli occhi. Non riusciva, pare. Ore della sera, fanciulle in veli grigi. Ore della notte, poi, nere, con pugnali e mascherine. Idea poetica. Rosa, poi dorate, poi grigie, poi nere. E poi, fedele anche alla realtà, il giorno, poi la notte. Strappò bruscamente metà del racconto a premio e ci si nettò. Poi succinse i pantaloni, si allacciò le bretelle e si abbottonò. Tirò a sé la porta sconnessa e traballante del cesso e uscì dalla penombra all'aria aperta. nella luce piena, alleggerito e rinfrescato nelle membra, si guardò attento i pantaloni neri, le balze, le ginocchia, le borse alle ginocchia. A che ora è il funerale? Meglio guardare sul giornale. Un cigolio e una cupa vibrazione su in alto nell'aria. Le campane della chiesa di Giorgio battevano le ore. Cupo metallo sonante. Ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh. Un quarto al... Un'altra volta gli armonici indugiavano nell'aria. Una terza. Povero Dignam.